Ottavo canto del Purgatorio dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitare il sito LibriVox.org. Purgatorio, ottavo canto. Era già l'ora che volge il disio ai naviganti e intenerisce il core, lo dì candetto ai dolci amici addio, e che lo novo peregrin d'amore punge se ode squilla di lontano, che pai al giorno pianger che si more, quand'io incominciai a render vano l'udire e ammirare una dell'alme surta che l'ascoltar chiedea con mano. Ella giunse, levò ambo le palme, ficcando gli occhi verso l'oriente, come dicesse a Dio d'altro non calme. Te, lucisante, sì devotamente le uscio di bocca e com si dolci note che fece me a me uscir di mente, e l'altre poi dolcemente devote seguitar lei per tutto l'inno intero, avendo gli occhi alle superne rote. Aguzza qui, lettor, ben gli occhi al vero, che il velo è ora ben tanto sottile, certo che il trapassar dentro è leggero. Io vidi quello esercito gentile, tacito poscia riguardare in sue, quasi aspettando, palido e umile, e vidi uscir dell'alto e scender giue due angeli con due spade affocate, tronche private delle punte sue. Verdi come fogliette pur mo nate erano in veste, che da verdi penne percosse traean dietro e ventilate. L'un poco sovra noi a starsi venne, e l'altro scese in l'opposita sponda, sicché la gente in mezzo si contenne. Ben discernea in lor la testa bionda, ma nella faccia l'occhio si smarria come virtù ch'a troppo si confonda. Ambo vegnon del grembo di Maria, disse Sordello a guardia della valle per lo serpente che verrà vie via. Un Dio che non sapeva per qual calle mi volsi intorno e stretto m'accostai tutto gelato alle fidate spalle, e Sordello anco ravvagliamo mai tra le grandi ombre, parleremo ad esse, grazioso fia lor vedervi assai. Solo tre passi credo chi scendesse, e fui di sotto e vidi un che mirava pur me come conoscermi volesse. Temp'era già che l'aere s'annerava, ma non sì che tra gli occhi suoi e miei non dichiarisse ciò che pria serrava. Ver me si fece, io ver lui mi fei, giudice nin gentil, quanto mi piacque quando ti vidi non esser tra rei. Nullo bel salutar tra noi si tacque, poi ti mandò quant'è che tu venisti a piè del monte per le lontane acque. Oh, dissi lui, per entro i luoghi tristi venni stamane, sono in prima vita ancor che l'altra sia andando acquisti. E come fu la mia risposta udita, Sordello ed egli indietro si raccolse, come gente di subito smarrita. L'uno a Virgilio e l'altro a un si volse, che sedea lì gridando «Su, Currado, vieni a veder che Dio per grazia volse!» Poi volto a me, «per quel singular grado che tu dei a colui che si nasconde lo suo primo perché che non gli è guado, quando sarai di là dalle larghe onde, di a Giovanna mia che per me chiami, laddove all'innocenti si risponde. Non credo che la sua madre più m'ami, poscia che trasmutò le bianche bende, le quai convien che miser ancor brami. Per lei assai di lieve si comprende quanto in femmina foco d'amor dura, se l'occhio il tatto spesso non l'accende. Non le farà sì bella sepoltura la vipera che melanesi accampa, come avria fatto il gallo di Gallura». Così dicea, segnato della stampa nel suo aspetto di quel dritto zelo che misuratamente in core avvampa. Gli occhi miei ghiotti andavan pur al cielo, pur là dove le stelle son più tarde, siccome rota più presso allo stelo. E il duca mio, figliuol, che lassù guarde, e io a lui a quelle tre facelle di che il polo di qua tutto quanto arde, ond'egli a me le quattro chiare stelle che vedevi staman son di là basse, e queste son salite ov'eran quelle. Com'ei parlava e sordello a sé il trasse, dicendo «vedi là il nostro avversaro», e drizzò il dito perché in là guardasse. Da quella parte onde non ha riparo la picciola vallea era una biscia, forse qual diede ad Eva il cibo amaro. Tra l'erba e fior venia la mala striscia, volgendo ad or la testa e il tosso, leccando come bestia che si liscia. Io non vidi e però dicer non posso come mosser gli astor celesti ali, ma vidi bene l'uno e l'altro mosso. Sentendo fender l'aere alle verdiali, fuggì il serpente, gli angeli dier volta, suso alle poste, rivolando iguali. L'ombra che s'era al giudice raccolta, quando chiamò, per tutto quello assalto, punto non fu da me guardare sciolta. Se la lucerna che ti mena in alto, trovi nel tuo arbitrio tanta cera quant'è mestiere infino al sommo smalto, cominciò ella, se novella vera di Val di Magra o di parte vicina, sai, dillo a me, che già grande la era. Fui chiamato Currado Malaspina, non son l'antico, ma di lui discesi, a miei portai l'amor che qui raffina. Oh, diss'io lui, per li vostri paesi già mai non fui, ma dove si dimora per tutta Europa che non sien palesi? La fama che la vostra casa onora grida ai signori e grida la contrada, sicché ne sa chi non vi fu ancora. E io vi giuro, s'io di sopra vada, che vostra gente onrata non si sfregia del pregio della borsa e della spada. Uso e natura sì la privilegia, che perché il capo reo il mondo torca, sola va dritta il mal cammin dispregia. Ed egli or va che il sol non si ricorca sette volte nel letto, che il montone con tutti e quattro i piè cuopre in forca, che cotesta cortese opinione